Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da gennaio a maggio del 1828. Arrivano le condanne per l'attentato al cardinale Rivarola, ma ci sono dubbi sul processo. L'enigma di un sedicenne affascina la Germania, ha vissuto prigioniero per anni e sa dire solo il suo nome, Kaspar Hauser. Gli occhi della polizia sabauda su un nuovo periodico e l'indicatore genovese. Londra apre alla comunità scientifica il giardino zoologico e c'è anche un ippopotamo. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura le notizie che arrivano dallo Stato Pontificio. A Ravenna, per il fallito attentato al cardinale Rivarola, sono stati arrestati dei presunti carbonari e quattro di loro sono stati sommariamente condannati a morte, tra loro un fornaio, un calzolaio, un barbiere, mentre per altri presunti cospiratori è stato previsto il carcere. Permangono molti dubbi da parte di osservatori esterni sul fatto che si possa trattare veramente degli autori dell'attentato. E ora andiamo in Germania per la storia che sta affascinando il paese. L'età apparente di Kaspar Hauser è 16 anni. Lo hanno trovato che vagava per le vie della città di Norimberga e aveva con sé due fogli, due lettere dei presunti tutori o della madre e del padre. C'è scritto che il ragazzo sa leggere e scrivere, in realtà molto poco, e si chiede che venga preso nella cavalleria prussiana. Tra le poche frasi che riesce a pronunciare c'è proprio questa richiesta: «Voglio essere un cavaliere, proprio come mio padre», e ancora «cavallo, cavallo». Il suo nome lo ha scritto lui stesso su un foglio di carta ed è stato lui a raccontare, smozzicando le parole, di aver vissuto in una cella tutta la sua vita. La Germania si divide tra chi gli crede e chi no, chi ipotizza che sia di stirpe reale e chi pensa sia solo uno sbandato. Fiumi d'inchiostro scorrono sui periodici tedeschi e sulla carta delle lettere che si scrivono gli esperti. Uno di loro, il professor Daumer, insegnante in città, ha avuto la responsabilità del ragazzo e il compito di sciogliere l'enigma di Kaspar Hauser. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. E a proposito di periodici, ce n'è uno che sta irritando la polizia sabauda. Si chiama L'Indicatore Genovese, pubblica articoli di varia natura, soprattutto, o almeno così doveva essere, annunci mercantili. Ma quel che sta creando qualche problema sono i pezzi firmati da un giovane neolaureato in legge, Giuseppe Mazzini, peraltro in odore di carboneria. Sono articoli dedicati alla critica letteraria, ma prendono quasi sempre in esame argomenti e testi patriottici. Da Torino hanno dato ordine di intervenire laddove le forze dell'ordine ne ravvisassero la necessità. Con il gusto tipicamente inglese per le abbreviazioni, il giardino zoologico da poco inaugurato a Londra è già diventato zoo. Vi sono decine di specie di animali, al momento però visibili solamente dagli esperti e non dal pubblico, tra questi alcune specie di antilopi come i kudu, scimmie come gli orango e anche esemplari di ippopotami, i primi che si siano visti in Europa dai tempi dell'antica Roma. È tutto sul nostro blog e sulla nostra pagina Facebook. Trovate notizie, spazi di discussione e di approfondimento sul nostro sito Il Foglio Quotidiano, con immagini e notizie, missive digitali a Gazzettino e radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.